Incontri di Gianfranco Fabi. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Con la voce di Louis Armstrong, le note di What a Wonderful World, iniziamo l'incontro di oggi. Buongiorno, buon pomeriggio, buona domenica, Nino Lo Bianco. Buongiorno a tutti. Sentiremo tra poco chi è Nino Lo Bianco per chi non lo conosce, ma prima di tutto vediamo perché What a Wonderful World in questo mondo che sembra così complesso, in fondo così triste, la crisi, parliamo da 5 anni della crisi e lei mi propone un mondo meraviglioso. È una canzone rassicurante dal mio punto di vista perché mi segue da moltissimi anni, è una canzone che spesso ascolto con mia moglie, con cui sono sposato da 48 anni e siamo ancora in rodaggio, credo, di matrimonio. I primi 48 anni. Ed è una canzone che quando qualcosa va storto mi tira su il morale, mi fa capire che insomma poi il mondo continua, ci sono delle belle situazioni nella natura, i fiori ritornano, le rose anche, quindi... E quindi aspettare, e quindi avere pazienza. Aspettare, ma anche avere una visione un po' ottimistica, guardare le cose positive soprattutto e quelle meno positive dall'altra parte, pensando che magari si possono cambiare. Cercare di scrollarsele e di superarle. Questo è un pochino il motivo. Allora, Nino Lo Bianco, attualmente presidente di Business Integration Partners, quindi una società di consulenza essenzialmente. Quando è nata, come mai le è venuta l'idea di creare un'azienda? Cosa faceva prima? Io sono sempre stato un consulente da 45-46 anni, credo di essere stato uno dei primi. Spesso la gente mi dice che sono il padre della consulenza in Italia, esagerano ovviamente perché i padri sono stati altri, Pietro Gennaro e la generazione immediatamente precedente, ma ho cominciato certamente fra i primi. Ho fatto un master quando ancora i master erano una merce rara, mi sono appassionato a questo tipo di attività dopo invece gli studi giuridici e la laurea in legge che avevo conseguito in un primo tempo. Da Meridionale era l'unica industria che esistesse l'avvocatura e quindi... Si era già trasferito però... No. Ero ancora a Palermo perché a Palermo c'era una scuola di amministrazione aziendale che ha resistito fino all'anno scorso, che si chiama ISIDA, che ha avuto docenti americani per 6 o 7 anni e che ci ha formato in maniera molto interessante. Quindi su di me hanno investito molto, sono stato molto a insegnare all'estero, a Fontainebleau, all'INSEAD, in altre scuole, in giro per l'Europa, IESA Barcellona, in Inghilterra, eccetera. Nel 70 sono venuto a Milano e nel 73 ho fondato la mia società che si chiama Tatelos, quindi ho sempre soltanto fatto il consulente. Per 23 anni questa società è cresciuta divenendo poi la prima in Italia. Poi ho pensato che bisognasse internazionalizzarsi, era il momento in cui se non eri internazionale non eri nessuno. Abbiamo provato a farlo da soli, era molto difficile, oltre che ci volevano grandi capitali. Ho acquisito la Deloitte Consulting Italia che andava molto male, l'abbiamo rimessa in piedi, dopodiché la Deloitte Mondo ha deciso di fondere tutte le Deloitte che c'erano, circa 48-49, e quindi mi ha acquisito all'interno e sono rimasto come amministratore delegato della Deloitte Consulting Italia. E ho fatto un po' di carriera internazionale come si fa in queste grandi case, prima in Europa, poi senior global partner del sistema. Nel 2003 Deloitte decise, secondo la nuova normativa, avrebbe dovuto separare le attività di consulenza e di revisione per non incorrere nei problemi della SEC o della Consob sulle aziende quotate, e quindi in contrasto con tutti gli altri competitor di questo mondo invece fece la fusione, che all'inizio sembrò a tutti una cosa molto inefficace e che adesso credo che gli stia dando per altra ragione sulle aziende medio-piccole, quindi rinunciarono a molte delle aziende quotate che loro auditavano. Noi della consulenza avremmo perso molti di questi clienti io proposi al sistema internazionale di uscire, così come altre practice nel mondo avevano fatto, portando via i clienti che avrebbero dovuto rinunciare obbligatoriamente. E quindi in 80 siamo partiti su questa iniziativa con colleghi con cui lavoravamo già da moltissimi anni insieme, quindi era un'equipe collaudata e di successo. Non nasceva da quindi nulla. È stata un'avventura importante. Oggi siamo la più grande società italiana di consulenza, siamo 624 dipendenti in Italia, abbiamo delle filiali dirette in Francia, Spagna, Brasile, Argentina, Tunisia e da settembre anche in Inghilterra, quindi c'è una BIP UK. Quindi non è più solo consulente, è anche e soprattutto imprenditore a questo punto. Ma io mi definisco allenatore di consulenti, cioè nel senso che mi piace molto allevare nuove generazioni di consulenza e di averle come partner, come colleghi, come soci, ma assicurare loro un futuro in questo tipo di attività con un brand italiano che si sforza di competere prima in Italia, adesso anche all'estero, con i maggiori brand internazionali. È una passione, un desiderio che ho avuto fin dall'origine, da quando fondai Telos, e che in questo momento sta prendendo piede nonostante la crisi, nonostante l'Italia non goda di grandissima reputazione sulle attività liberali all'estero. Il fatto che il nostro non è un prodotto di moda e non è neanche un prodotto fashion di tipo acquisto d'impulso e così via, però insomma stiamo progredendo. Anche nella consulenza indubbiamente ci vogliono qualità umane come la creatività, come la capacità di giudizio, la capacità di distinguere, che forse gli italiani alla base hanno, non dico più degli altri, ma c'è una capacità un po' innata di cercare il bello, il buono, quello che in fondo può soddisfare meglio. Questo è vero anche nella consulenza, oltre che nella moda, oltre che nel design. Ma direi di sì, nel senso che l'innovazione nel nostro tipo di attività è un fattore obbligatorio e permanente. Quindi non esistono società che facciano le stesse cose per 10 anni, 20 anni, 30 anni. Quindi devi cambiare il contenuto dell'attività in maniera costante, dinamica. La cosa che rimane, almeno nel sistema che abbiamo creato di BIP, ma che era già nostro quando eravamo in Telos, molti di noi lavorano insieme da quell'epoca e quindi poi sono passati attraverso l'esperienza anche Deloitte, è l'impegno e la costanza. Cioè questo è un'attività che richiede molta fatica, cioè non c'è soltanto il lampo d'ingegno o l'acutezza del pensiero, c'è molto analisi, ricerca dei dati, benchmark nazionali, internazionali. I tempi sono sempre molto stretti e quindi è un tipo di attività da un lato faticoso, dall'altra parte che richiede impegno costante. Noi puntiamo molto su un'accoppiata che si è rivelata vincente, perché non si passa senza qualche merito da 80 a 624 in 9 anni con un mercato in crisi, senza applicare questa regolina semplice che noi abbiamo in qualche modo. Noi siamo più centrati sull'efficacia che non sull'efficienza, cioè noi vogliamo che le cose per cui veniamo chiamate vengano fatte e che il cliente riconosca non solo il risultato ma anche l'impegno che abbiamo messo nel fare questo. Questo ci sta pagando molto e quindi crediamo che ci sia un beneficio dalla fatica, ed è quello che crediamo anche ai nostri più giovani di fare. Quindi guardare molto al risultato più che al metodo, più che alla coerenza del metodo, l'efficacia del risultato. Il metodo è una condizio sine qua non, cioè se non hai expertise non riesci a fare nulla. Ma se non hai anche l'experience e la volontà di fare il risultato, alla fine il cliente percepisce che tu stai lavorando per te stesso e non per lui. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. ancora con la voce di Louis Armstrong, una voce molto evocativa e molto ottimista, molto profonda. Riprendiamo il nostro incontro con Nino Lo Bianco, presidente di Business Integration Partner, la maggiore società di consulenza aziendale italiana. Abbiamo concluso la prima parte chiedevo appunto a Nino Lo Bianco, questo nome Business Integration Partner è già una filosofia di azione, è già un motivo di interesse verso cui si muove una società come la sua? Sì, è stata una scelta volta ad indicare immediatamente il posizionamento della nostra struttura aziendale. La parola chiave non è business e non è partners, ma è integration. Noi vogliamo integrare i tre momenti chiave della gestione aziendale, le tre S, come si dice, strategia, struttura, sistemi o supporti. Molto spesso chi fa soltanto strategia, quelli che vengono definite le strategy boutique, lasciano un grande libro o un piano, dicono che cosa fare e poi molto spesso le aziende non sono capaci di realizzarlo. I consulenti tornano dopo un po' di tempo e dicono il piano non è stato capito, le persone non sono state capaci di farlo, oppure dicono è stato boicottato da parte del manager, dice il management ha boicottato il piano. Non è vero nulla, nella prima e nella seconda soluzione, molto spesso abbiamo constatato in questi anni di lavoro è il fatto che le persone non hanno capito come si fa a realizzarlo. Quindi non è sbagliato il cosa, spesso, ma è impossibilitata la struttura a realizzarla, o impossibilitata o incapace. La seconda cosa è che ci sono delle grandissime società, bravissime, eccetera, che ti portano dei sistemi, dei tool di tipo informatico o anche non informatico, dicendoti con questo hai risolto tutti i problemi. Anche lì dare una macchina dove non c'è una strada è molto difficile farla funzionare. Allora c'è bisogno di qualcuno che dica come si fa la strada, e cioè quali sono tutti i cambiamenti nei processi, nei sistemi di base organizzative, perché il sistema informativo poi produca al meglio i suoi risultati. Allora noi cerchiamo di integrare strategia, quando ce la richiedono la facciamo con l'azienda, in certi casi la ereditiamo da consulenti che l'hanno già in qualche modo definita, ci occupiamo di assestare l'organizzazione in relazione alle esigenze attuali e soprattutto future prospettiche di una strategia come quella che hanno concepito, e poi dall'altra parte verifichiamo se i sistemi sono adeguati. Da questo punto di vista si raggiungono spesso dei risultati di efficacia molto superiori a quelli che normalmente quando si affrontano i progetti in chiave singola o solamente teorica, solamente applicando delle teorie a una realtà. Invece quello che conta è anche la gestione operativa e quindi il valore umano, in fondo. Assolutamente, come dice. Dall'altra parte crediamo di mettere un po' di passione in questo tipo di attività e quindi di identificarci con il cliente, quindi siamo anche integrati in qualche modo con le strutture aziendali, questo era il motivo. Ecco, com'è cambiata? Lei mi ha detto che ha iniziato negli anni 60 a fare il consulente aziendale, anni del boom economico, di grandi trasformazioni, adesso siamo in anni un po' più difficili, un po' più complessi, anche se siamo certamente più ricchi di allora. Com'è cambiata la consulenza aziendale? Come sono cambiate anche le strutture aziendali? Non vi dico com'è cambiato il mondo, staremo qui per tutto il pomeriggio, ma sì, com'è cambiata la consulenza? In maniera sintetica, la professione è passata da una fase pionieristica in cui eravamo 200 in Italia, 250 in Italia, in cui il cliente conosceva le persone per nome e cognome, sapeva quali erano le professionalità intrinseche di ognuno di loro, ad una struttura che a oggi sembrerebbe 25-30 mila praticanti. Questo ha comportato un salto di visione importante, perché mentre all'inizio noi eravamo soprattutto dei metodologi che sperimentavamo con l'azienda e facciamo anche successo con cose molto banali, nel senso che la divisione di costi fissi e variabili era in quegli anni quasi ignota a molti aziendalisti, a molti anche oltre che manager e imprenditori, si è andata facendo sempre via via più specializzata, via via più raffinata nei contenuti. E soprattutto è diventato importante avere delle esperienze settoriali, quindi non più dei metodologi che potevano saltare da un settore all'altro, ma avere delle esperienze molto specifiche di tipo industriale. Per esempio noi abbiamo scelto in questa fase di lavorare soprattutto per aziende delle telecomunicazioni, dei media e dell'energia e delle utilities, delle banche e le assicurazioni. Non siamo esperti in molti settori tipo food, beverage, fashion e così via. Più sul fronte dei servizi, sul fronte... È una scelta di tipo più tecnico o tecnologico, se lei vuole, no? Rispetto a quelle di mercato più basate sull'acquisto. Quindi noi siamo molto più centrati sulla produzione o comunque sulla fornitura del servizio più che della motivazione di acquisto. Banalmente, magari, qual è il problema più comune che lei incontra approcciando un'azienda? Il problema magari anche più semplice, per dirla, che di fronte, quando viene chiesta una consulenza, dice, ma la prima cosa da fare qual è? La prima cosa da fare, può sembrare strano, è capire quello che ti è stato chiesto. Perché molto spesso ti chiedono una cosa e se ne aspettano un'altra, o forse la cosa che ti chiedono non è neanche quella giusta da dargli. È un po' come il medico che deve capire se la medicina che ti viene chiesta perché l'hai sempre presa o perché qualcuno te l'ha detta, te l'ha riferito, è quella giusta. Quindi identificare il problema nelle sue sfaccettature e nella utilità di risolverlo, se non ci sono altre priorità, per esempio, o se non è condizionato da altri tipi di aspetto. Ecco, questo credo che sia fondamentale, quindi avere l'esperienza per non accettare a scatola chiusa qualunque cosa ti venga chiesto, ma per fare una preanalisi, una indagine che definisca esattamente il contorno dell'ingaggio sul problema e che poi ti possa misurare sul risultato che hai acquisito, perché questo è fondamentale per noi: raggiungere un risultato, fornire una efficace soluzione della cosa che ti è stata chiesta e cercare di fare in modo che poi la struttura sia in grado di proseguire nel momento in cui te ne sei andato. Ecco, ma la struttura, il management di un'azienda non può prendere male il fatto che qualcuno venga a mettere il naso nella gestione operativa, che dovrebbe essere responsabilità di chi nell'azienda opera. Non c'è questo rischio del consulente visto come un motivo di contrasto oppure un motivo di influenza di qualcuno rispetto ad altri? In linea teorica è così, e direi che in passato è stato uno delle remore maggiori al successo della consulenza in azienda, cioè la competizione con il management. Oggi direi che le cose sono molto cambiate, proprio perché è molto più matura questa professione, ma è anche molto molto migliorata la classe manageriale nel nostro paese. Cioè ci sono al vertice delle nostre strutture pubbliche e private dei fior di manager, mentre invece 10-15 anni fa c'erano onorevoli trombati, amici degli amici, tutta una serie di situazioni che hanno cambiato, soprattutto sul panorama romano. Quindi qualcosa è migliorato? Moltissimo. Moltissimo, direi che la qualità del management è molto migliorata. Quindi, per tornare alla domanda, un management che non ha paura del consulente, che lo trova al suo servizio ma anche dialogante e quindi capace di dargli delle nuove idee, è certamente in questo momento meno visto come un pericolo di come fosse in passato. Soprattutto loro capiscono molto, ma non hanno poi il tempo nella routine, nell'intervento giornaliero, di portare avanti certi loro problemi, e il problema in questo momento è passato dal management che era inadeguato 20 anni fa o 30 anni fa a un middle management che non è in condizioni, perché ha fatto gli studi molti anni prima, perché le cose sono cristallizzate in qualche modo, di fare un passo avanti nella realizzazione. Ecco, noi aiutiamo a far sì che le cose accadano, che le cose succedano così come il management ha desiderato. Quindi siamo molto più al servizio e molto meno in competizione di come eravamo 10 anni fa o 20 anni fa. Ecco, posso chiederle qual è stata la più grande soddisfazione che ha avuto, magari non recentemente, anche qualche anno fa, in cui ha trovato o intuito una soluzione per un'azienda che ha dato poi dei risultati molto buoni? Ma soddisfazione del tipo che lei ipotizza ne ho avute poche, nel senso che io non ho mai lavorato per far vedere che io ero bravo. Ho lavorato per far sì che l'azienda facesse le cose e le facesse anche con il consulente, ma non è merito del consulente, è sempre merito di un team e di una fusione fra chi lo chiede e chi lo fa. La più grande soddisfazione è stata quando con Telos, che era la società che in precedenza avevo sviluppato, abbiamo in un unico anno fatto la riorganizzazione di corporate e delle divisioni di Fiat, di IRI e di ENI, che all'epoca erano il top, certo, delle presenze in Italia. Quello fece così venire un po' di bile a molti dei competitor internazionali, e noi acquisimmo alcuni titoli molto, come dire, di riconoscimento importanti nel paese. Un'ultima domanda, guardando un po' la situazione attuale delle imprese italiane: ce la faremo? La risposta è: alcune sì, alcune no. Molte ce la faranno. Molte ce la faranno, parecchie non ce la faranno. Ce la farà chi è più pronto a sfruttare l'export, capisce quali sono le esigenze, in certi casi anche dolorosamente delocalizzando, o alcuni invece in maniera del tutto divertente delocalizzando, ma c'è bisogno di avere una visione globale. Non è più chi è ristretto al nostro paese o soltanto all'Europa, io credo che avrà delle progressive difficoltà, forse ce la farà per qualche anno, ma poi sarà certamente inghiottito dal ricambio. Diventare internazionale non è una scelta, ma è un obbligo a questo punto. Beh, è il mercato che è diventato internazionale, quindi chi si rifiuta di esserlo non può sperare di far successo. A questo punto è forse anche il lato di opportunità della crisi. Assolutamente. Attuale. Grazie a Nino Lobianco, presidente di Business Integration Partner, società di consulenza, la maggiore società di consulenza aziendale italiana, di essere stato con noi questo pomeriggio, così come ringrazio Gianmarco Ferronato in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie ancora, buona domenica.